L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta in cui parleremo di agricoltura, ma da un punto di vista inusuale, cioè quello dei contoterzisti agromeccanici ed industriali, cioè di coloro che con i loro mezzi agricoli lavorano i campi di aziende agricole che non hanno quegli stessi mezzi o che non hanno la convenienza ad acquistarli. È un lavoro che può essere fatto a tanti livelli, con tanta o poca competenza, con tanta o poca innovazione. E questo è già un problema, perché con macchine di ultima generazione, trattori o mietitrebbie che siano, e operatori competenti, si ottengono risultati decisamente diversi, anche a livello di sostenibilità delle coltivazioni, diversi rispetto a quelli che si possono avere spendendo pochi soldi, ma per un lavoro fatto in modo, diciamo, tradizionale. I contoterzisti di UNCAI, che è l'Unione Nazionale Contoterzisti e Agromeccanici Industriali, hanno recentemente stretto alleanza con la Confagricoltura e lavorano a tutti i livelli per vedere riconosciuta la loro professione e magari in futuro poter accedere anche a finanziamenti europei per l'acquisto dei loro mezzi. Di tutto questo parleremo nelle interviste che ascolteremo in questa puntata, realizzata in occasione dell'Assemblea Generale di UNCAI, che si è tenuta ad Expo Milano 2015 presso il padiglione Sustainable Farm di New Holland Agriculture. Cominciamo con l'ascoltare i temi portanti dell'Assemblea Generale da Aproniano Tassinari, che è il presidente di UNCAI. L'assemblea molto partecipata, soprattutto non tanto numericamente, ma nella varietà del pubblico e degli interventi. Io direi soddisfacente, però mi dica lei, insomma, come l'ha trovata. Credo molto nella qualità oltre che alla quantità, quindi oggi abbiamo assistito veramente a una presenza e a dei relatori di altissima qualità. Sono stati toccati tutti i temi inerenti all'agricoltura, ma il principale è stato quello di dover per il futuro lavorare assieme, ed è una cosa che UNCAI ha intuito già un anno o due anni fa, cercando questa collaborazione, diciamo, con Confagricoltura, ma la base è ognuno mantenga il proprio ruolo e ognuno deve svolgere un lavoro complementare all'altro. Ho notato solo un'assenza, quella dell'università. Una scelta o un caso? No, diciamo che avevo invitato anche la presenza dell'università. Ci sono degli inconvenienti di presenza, cioè delle difficoltà anche di arrivare a Milano in questo periodo. Ecco, esatto. Quindi, no, l'università è sempre nei nostri interessi. Anzi, io personalmente faccio parte dell'Accademia dell'Agricoltura di Bologna, quindi partecipo a questi incontri. Sono un accademico, così denominato da loro, visto considerato le cose, i disastri che ho provocato, e quindi l'università è una cosa importante. Indubbiamente l'operatività e la presenza dell'agricoltore attivo è molto determinante. Dunque, lei ha aperto i lavori iniziando subito con l'elenco dei problemi. Il primo che ha messo è stato quello dell'albo. Sì. E l'altro era i contributi dell'Unione Europea. Le pare che oggi si sia sviluppata una positiva discussione su questi due aspetti, e quali saranno i vostri prossimi movimenti su questi due fronti? Il discorso dell'albo credo che sia una necessità che dovrà essere presa in considerazione in tutte le realtà dove opera il contoterzismo. Quindi c'è sempre un inizio e poi la continuità, poi un po' alla volta verrà messa a punto questa cosa. Per quanto riguarda i finanziamenti europei, noi vorremmo essere identificati come contractors, come contoterzisti, e questa è una battaglia che avviene non solo in Italia ma in Europa, perché in tutta Europa il contoterzismo è al di fuori di quelli che sono i contributi PSR e quant'altro c'è, cioè, da parte della Comunità Europea, tant'è che esiste un'associazione europea che raggruppa tutti i contoterzisti d'Europa, e stiamo assieme portando avanti delle istanze che erano già state prese in considerazione nel periodo in cui c'era Paolo De Castro, diciamo, il nostro rappresentante dell'agricoltura nel mondo europeo. Poi per diverse ragioni si è un po' perso per strada. Noi dobbiamo riprenderlo, identificare la figura del contoterzista, cosa fa, quali sono i sostegni di cui ha bisogno per migliorare l'agricoltura e renderla competitiva. Questo è il discorso che bisogna fare. Ed viene colto, per le pare, dagli eredi? Sì, no, ma la cosa peggiore è cercare di identificare la necessità del contoterzista con quella dell'agricoltore. Sono due cose completamente distinte. Quindi creando confusione si crea poi contrapposizione. E quella contrapposizione significa l'associazione di categoria che intuiscono male questo nostro desiderio di essere sostenuti, ma come una rapina nei confronti delle loro contributi. Questo è sbagliatissimo. Riprendiamo la questione dell'albo professionale con Francesco Torrisi, direttore di Uncai. Gli abbiamo chiesto perché vogliono un albo professionale. Non è un po' fuori dai tempi ormai? E innanzitutto premetto che l'idea di un albo chiuso è fuori dalla storia, fuori dall'epoca. Quindi nessuno parla di regolamentare in senso di chiusura ulteriore di un mercato. Questo, le direttive che arrivano dall'Europa sono al contrario: apertura dei mercati, apertura delle professioni, apertura dei servizi. Nulla toglie che però io posso consentire al legislatore di predisporre un impianto che dia una medaglia a chi è più meritevole. Questo penso che sia innegabile. Quindi l'albo nasce come idea di dare riconoscibilità a chi ha una qualifica professionale certa, evidente, e diventa allo stesso tempo un servizio per gli agricoltori, perché hanno la possibilità di, consultando quest'albo, hanno la possibilità di accedere a dei professionisti certi e di essere sicuri che i servizi che li verranno svolti raggiungono un certo standard. Quindi è una garanzia per chi si rivolge al professionista, e il professionista stesso è un elemento incentivante verso la qualificazione professionale, perché sa che poi è ripagata ed è evidente, e quindi ha la possibilità di farsi conoscere. Perché non molti sanno, quindi chiariamolo, insomma, tanti prestano questo servizio magari non avendone l'abilità, o semplicemente perché hanno il possesso di un certo strumento di lavoro, quindi ci vengo io e lo faccio, ma non è detto che poi sia capace o che garantisca una riuscita di un lavoro, insomma, ad hoc. Assolutamente, anzi, per essere... Voi avete le stime, dei numeri, delle un'idea di quello che accade nella realtà delle cose? C'è una zona grigia molto ampia. E lì... molto nero, immagino. C'è moltissimo nero. C'è moltissimo nero perché la legge è molto chiara, quindi un agricoltore può svolgere attività di conto terzi esclusivamente chiamata attività connessa, cioè deve essere sotto una quota parte del proprio reddito, altrimenti diventa un'attività prevalente e quindi non può essere. Chiaramente è difficile certificare, è difficile avere la percezione di quante ore vengono quel trattore svolge attività connessa o attività a servizio del proprio fondo. Quindi questo qua genera nero e genera anche una mancanza di professionalità, perché si tratta di persone che vanno a prestare questi servizi senza avere una competenza specifica, ma nascono semplicemente dall'utilizzo iniziale del proprio campo e si adoperano o provano a farlo in chiave più ampia. Però questo è un elemento che crea un problema anche di asimmetria e di mancanza di concorrenza, e un chiaro esempio di concorrenza sleale. E nel momento in cui, lo dico chiaramente, c'è qualcuno che riceve dei finanziamenti per l'acquisto di una macchina e qualcun altro no, come il conto terzista, e chi non lo riceve si trova a dover competere con chi è in grado di fare dei costi chiaramente minori, in quanto lo dovrebbe fare esclusivamente come attività connessa. Quindi nel momento in cui tutte le misure, tutti i piani di sviluppo rurale o tutte le politiche per l'agricoltura che vengono messe in atto dovrebbero prendere in considerazione che tra le attività non agricole c'è anche la prestazione di servizi, e questo non lo dice l'Uncai, non lo dicono i controterzisti, ma lo dice la Commissione stessa, lo dice il Parlamento, lo dicono autorevoli esponenti del Parlamento che dicono per la prima volta c'è stata un'apertura, quindi diciamo il meccanismo della porta aperta è stato messo. Noi abbiamo messo un piede in questa porta per non farla richiudere, però da qui affinché nelle regioni si passi a una declinazione di questa possibilità e diventi una fattiva capacità di fondi messi a disposizione, su questo ancora purtroppo c'è da lavorare. E allora andiamo a questo punto dagli agricoltori con Mario Guidi, presidente di Confagricoltura, perché Guidi e Tassinari, come dicevamo, strinsero lo scorso anno una convenzione tra Confagricoltura e Uncai per favorire lo sviluppo del settore primario e della meccanizzazione agricola, nonché della sicurezza e dell'impiego ottimale delle macchine agricole. Abbiamo interessi convergenti, spiegò allora il presidente di Confagricoltura. Vogliamo attivare un'alleanza forte sui grandi temi connessi allo sviluppo dell'agricoltura italiana per far crescere insieme in termini dimensionali, economici, finanziari, sia le aziende agricole sia quelle agromeccaniche. E ciò, aggiunse Guidi, può avvenire solo se le imprese agricole avranno reddito e risorse per ammodernarsi e se si metterà il settore agromeccanico nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro al meglio. Allora, passati diversi mesi da quell'intesa, sentiamo Mario Guidi al termine dell'assemblea di Uncai. È stata un'ottima assemblea di confronto, di dibattito, in cui si è parlato di innovazione, di competitività, di relazioni, di reti, tutte parole chiave per affrontare un futuro che ci pone delle sfide ma tantissime opportunità. Agricoltori, terzisti, istituti di ricerca, quello che era il CRA, che oggi diventa il nuovo organismo della ricerca anche in economia e in agricoltura, sono tutti i tasselli di un mosaico, di un puzzle che noi dobbiamo compiere il prima possibile. Perché l'Italia spesso si crogiola, se vogliamo dire, in questo suo made in Italy, in questa sua capacità, dimenticando di guardare con l'occhio giusto quali sono i nostri competitor, che non sono certo i cinesi, che non sono certo i paesi meno avvantaggiati, ma sono Francia e Germania, quindi molto più vicini. E quindi il tema della rete, delle relazioni da agricoltori e controterzisti, la richiesta, le giuste richieste che oggi possiamo fare, ovvero norme di semplificazione, norme che ci consentono di essere più competitivi, rinunciando anche forse noi agricoltori ad un po' di contributi comunitari, adesso lo dico quasi sottovoce, per destinarli alla ricerca, di cui abbiamo sempre più bisogno per essere competitivi. Agricoltori che lei diceva hanno anche alcune colpe, almeno su perché siamo arrivati in questa situazione di difficoltà. E lì, come, anche come associazione, come pensate si possa intervenire, cambiare un po' gli animi? Beh, io faccio sicuramente autocritica come organizzazione, che forse ha lasciato parlare troppo gli altri di noi. Se ben guardiamo, sono i non agricoltori che parlano di agricoltura, che hanno la maggiore audience, anche certi guru, certi personaggi, e noi lo abbiamo lasciato fare, questa è la nostra colpa. E forse come organizzazione ci siamo dedicati più a dei servizi, diciamo così, a bassissimo valore aggiunto, servizi di risolvere la complessità, e invece dovremmo combattere di più la burocrazia, dovremmo farlo da una posizione diversa, dovremmo, come dico io, toglierci di mezzo e metterci a fianco delle imprese. E anche a fianco per raccontargli un possibile futuro in cui loro si possano collocare. E poi noi agricoltori dobbiamo smettere di pensare di essere in competizione l'uno con l'altro. Siamo in competizione con altre parti della filiera nel raggiungere il consumatore, nel proporre e nel vendere i nostri prodotti. Ci fermiamo per qualche istante, ci ritroviamo tra pochissimo. Radio24.it è sempre con te. Anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente. Anche in viaggio. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio, stiamo parlando di agricoltura e in particolare di lavoro nei campi grazie all'assemblea di UNCAI, che è l'Unione Nazionale Controterzisti e Agromeccanici Industriali, cioè di coloro che con i loro mezzi agricoli lavorano nei campi di aziende agricole che non hanno quei mezzi e appunto non hanno magari neanche la forza economica per acquistarli o non hanno il desiderio di acquistarli. È una professione per la quale UNCAI punta alla costituzione di un albo aperto, non una corporazione, abbiamo sentito, che garantisca servizi di alto livello. C'è poi la questione dei finanziamenti per l'acquisto di mezzi agricoli, che per gli agricoltori puri esistono ma che non sono usufruibili dai controterzisti che pure lavorano in agricoltura e per gli agricoltori. Per raggiungere questi due obiettivi è nata lo scorso anno una partnership tra UNCAI e Confagricoltura, anche perché l'utilizzo di mezzi moderni, di mezzi sofisticati, precisi, potrebbe dare un nuovo impulso all'agricoltura italiana e potrebbe renderla anche più sostenibile, perché più sarà preciso l'uso che facciamo ad esempio della nostra acqua, minore sarà la nostra impronta ambientale. Però l'agricoltura italiana restia al cambiamento e alla modernizzazione, ci ha confermato Marco Mazzaferri, che è Business Director di New Holland Italia. New Holland, gruppo CNH Industrial, è produttrice di mezzi agricoli. Per quanto concerne la vendita di prodotti agricoli come trattori, mezzi trebbie, in generale io rappresento per la struttura Europa a cui appartengo il 20% dei volumi. Quando andiamo a verificare lo stesso dato sull'agricoltura di precisione, questo dato si divide per 10. Quindi rappresentiamo in Italia il 2% sull'agricoltura di precisione. Al di là, le chiedo per gli ascoltatori ma anche per me, l'agricoltura di precisione, quindi di che macchine stiamo parlando? Parliamo sostanzialmente di mietitrebbie e trattori, che hanno la capacità di guidare seguendo una linea con il satellite e la capacità di riandare in quella stessa identica posizione e quindi andando in quella fila anche successivamente per altre lavorazioni. Oppure, per esempio, io posso seminare andando dritto secondo la linea che mi indica il satellite e fra 3 mesi posso andare lì, concimare esattamente in quella linea e poi posso andarci anche tra 2 mesi e anche a mettere il diserbante, con il vantaggio grandissimo che se si usa per esempio una precisione a 2 centimetri, che è il massimo errore che ha la macchina andando secondo una linea dritta, lei che cosa ottiene? Ottiene che innanzitutto non semina 2 volte lo stesso punto, che non semina alcuni punti perché lei passa ovunque. Invece se andasse un po' secondo l'esperienza e l'abilità di conducente, ci sarebbero dei posti dove lei ci passa 2 volte, dei posti dove non ci passa mai. Quindi l'agricoltura di precisione aiuta innanzitutto a distribuire il prodotto principale in maniera uniforme, e poi questo prodotto avrà bisogno nella sua vita di altre lavorazioni, e queste lavorazioni si potranno fare uno in maniera molto precisa, 2 mettendo il prodotto esattamente dove serve e non un po' di più, non un po' di meno, e poi lo potrà fare in maniera ripetitiva, lo potrà fare il secondo anno, il terzo anno. Supponiamo che una mietitrebbia raccolga un campo di grano e la mietitrebbia le dia un dato in ogni punto quanto grano c'era e che qualità ha quel grano. Non parliamo di fantascienza, parliamo di cose che le nostre mietitrebbie fanno anche oggi. Ecco, lei potrà stabilire un piano agronomico sulla base di questi dati per l'anno seguente. Se lei 2 o 3 anni in seguito scopre che in un posto produce poco grano, in quel posto lì il terreno non è in grado di darle quello che le dà il terreno in altri punti. E quindi con l'agronomo si potrà intervenire per migliorare la produttività di quel terreno. Quindi questa è l'agricoltura di precisione in sintesi. Questa agricoltura di precisione quindi non ha al momento, non riscuote interesse, non c'è la capacità economica, qual è il punto? Beh, innanzitutto c'è in ogni investimento una barriera all'ingresso che è il costo dell'investimento, quindi già quando si arriva a effettuare un acquisto importante come una mietitrebbia o un trattore c'è un prezzo da pagare. Per aggiungere a questi mezzi l'agricoltura di precisione ci sono degli extra che possono essere nell'ordine del 5-10% del valore totale dell'acquisto. Chiaramente se uno mette insieme i numeri e vede quello che torna indietro di risparmio di carburante, di agenti che uno mette nel terreno e anche in un certo senso, anche se vogliamo bene al nostro pianeta, di quanti agenti chimici andiamo a mettere nel nostro terreno, alla fine mettendo tutto insieme si ha un risparmio. Però il giorno zero in cui uno acquista l'investimento è sicuramente più alto che senza l'agricoltura di precisione. E poi in agricoltura si usa molto la tradizione, mio nonno faceva così, mio papà faceva così e anche io farò così. E invece bisogna saper guardare oltre, guardare anche oltre confine, perché noi stiamo perdendo competitività nei confronti di altri stati dove invece le nuove tecnologie magari sono anche più incentivate e c'è anche una ricezione diversa da parte dell'agricoltore di queste nuove tecnologie. Per chiudere, su questi stati in Europa quali sono? A parte che ormai la concorrenza è anche nel Nord Africa, è molto ampia però. Ma guardi, adesso dire quali dati sono esatti bisognerebbe avere i dati. Io le dico che l'Europa, in Europa fatturiamo 10 volte quello che fatturiamo in Italia di agricoltura di precisione. Chiaramente dire Europa è una parola molto grande, ci saranno degli stati dove si usa di più, degli stati dove si usa di meno. I numeri sono questi, purtroppo, sì. E allora abbiamo sentito parlare tanto di estero, andiamoci all'estero con Giuliano Oldani, presidente di APIMA, che riunisce le aziende agromeccaniche di Milano, Lodi, Como, Varese. Oldani di recente è stato in Francia per il progetto europeo Life Help Soil legato all'agricoltura conservativa. Raccontava che l'aveva colpita in modo particolare proprio il ribaltamento del modo di lavorare, no? Prima lo provo nel mio campo e poi vado a chiedere, mentre l'Italia purtroppo spesso lavora all'incontrario, dammi i soldi che poi facciamo la prova. Sì, sì, è vero. I francesi bisogna ammettere che hanno una capacità innovativa e una capacità imprenditoriale maggiore degli agricoltori italiani. Su questo qui penso che tutti non possono smentire, nessuno può smentire questo. La semina su sodo in Francia la sanno fare perché tecnicamente l'hanno fatta da anni e l'hanno portata ad una precisione tale per cui non hanno nulla da invidiare circa le produzioni che riescono a fare, che facciamo noi in Italia, confrontandole sono uguali. In Francia raggiungono i 100-105 quintali ettaro semina su sodo. Tra parentesi sono riusciti. Ma il semina su sodo, lo diciamo a un ascoltatore medio che presumibilmente non sa cosa vuol dire? Che cos'è? La semina su sodo significa non ribaltare gli strati, perché l'aratura ribalta lo strato, mi tira fuori dalla terra sotto e ribalta quella sopra. Una minima lavorazione mi fa una lavorazione di miscelazione di strati superficiali con gli strati sotto, quindi è meno invasiva. La semina su sodo è meno invasiva ancora, addirittura non viene toccato se non lo strato superficiale di circa 10-15 mm. Loro riescono a fare una successione di prodotti con dei successi incredibili. Hanno anche migliorato sono riusciti a far produrre dei terreni che erano sassosi e che quindi sarebbero stati dei deserti. In altra forma non si poteva farli produrre, ecco. Non si poteva se non utilizzando la semina su sodo. La semina su sodo abbassa i costi perché qualche volta con un'unica passata, con delle macchine abbastanza precise, si riesce a fare il lavoro e seminare, mentre invece con una semina tradizionale i passaggi sono 2-3 passaggi o anche 4. E quindi c'è un dispendio oltre di energia, di costi, eccetera. Loro sono riusciti ad abbassare i costi, questo soprattutto per i cereali a paglia, e foraggio. Per il mais io direi che loro non hanno il clima che abbiamo noi, non hanno le condizioni e quindi non possiamo paragonare la nostra capacità produttiva, che è molto alta e quindi giustifica anche una lavorazione un po' pesante, rispetto a una semina su sodo che dà molto poco. Il CONAF. Il CONAF è il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali. È presieduto da Andrea Sisti ed è proprio per puntare sull'innovazione che anche il CONAF è stato invitato e ha partecipato all'assemblea di UNCAI. Sentiamo Sisti. Con il nuovo programma di sviluppo rurale vogliamo affrontare con loro una delle misure più importanti, non è solo quella degli investimenti oppure quella la PAC tradizionale o le misure agroambientali, ma la misura che prevede, una volta veniva definita 124 dell'innovazione, trasferimento e innovazione, adesso ci sono i cosiddetti gruppi operativi, cioè i PEI, nell'ambito dei PEI, partenariati europei per l'innovazione, dove con loro e con gruppi di agricoltori andiamo a sperimentare quali sono le migliori best practices, per in modo tale che loro siano anche una scindia di trasmissione per le aziende, per le imprese che fanno tecnologia, no? E che si provi sul campo e che non siano trattori che sono mirati, parlo del trattore tra virgolette, per le grandi distese francesi o ma che siano testati sui nostri territori, perché ogni territorio ha le sue peculiarità e questo è quello che noi vogliamo portare avanti con loro, perché loro sono la presenza sul territorio. E in conclusione l'ultima nota, vi abbiamo trasmesso in una delle passate puntate l'intervista a Salvatore Parlato, commissario straordinario di CREA, che è il nuovo ente nato dalla fusione tra INEA e CRA. CREA significa Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria. L'intervista in cui si presentava la nascita appunto del CREA la ritroverete nei podcast della trasmissione sul sito di Radio 24. Sulla partnership tra UNCAI e Confagricoltura Parlato ci disse di vederla di buon occhio, perché del resto, spiegò, uno degli obiettivi del CREA è creare collaborazioni, per l'appunto sembra un gioco di parole, creare collaborazioni con tutti i soggetti, a partire proprio dalle associazioni di categoria, per coniugare, disse, reddito delle imprese e ricerca scientifica in agricoltura. perché senza ricerca e senza risorse non andremo avanti. Ci fermiamo qui per questa puntata, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.